in realtà ha vinto l'ultradestra, malgrado anche tutte le accuse di corruzione di questo sistema che non funziona. Netanyahu, anche se come partito diciamo, è rimasto alla pari con il partito formato appena qualche mese fa da Gantz, da un altro generale, Netanyahu comunque con la coalizione delle destre riuscirà a fare il governo, quindi sarà di nuovo probabilmente primo ministro. Beh, quello che si è affermato è la politica di Netanyahu di questi ultimi anni, quello di continuare in modo indiscusso e supportato in realtà da tutta la comunità internazionale, perché nessuno lo sta fermando, continuando a fare colonie dentro i territori occupati e a tenere Gaza segregata e prigioniera in quel pezzo di terra. Nessuno li ferma, purtroppo. E c'è una sola cosa positiva che io vedo in queste elezioni, che è il fatto che comunque Naftali Bennett e Ayelet Shaked, noti per essere degli oltranzisti, non sono entrati in Parlamento, così come è entrato in Parlamento un altro personaggio fanatico di destra come Zeglin. È rientrato però Lieberman e sono entrati i partiti ortodossi, alleandosi tra l'altro uno di questi con il vecchio movimento Kahane, che era stato una volta considerato fascista anche dalla Corte Suprema israeliana. Purtroppo anche c'è una flessione da parte di quella che nelle ultime elezioni è stata una grande speranza, quella della Joint List, che rappresentava sia i partiti arabi che un partito come Adash, un vecchio partito comunista, che non è solo arabo ma invece all'interno anche ebrei. Nell'altra legislatura avevano preso 13 seggi, questa volta spaccati e separati hanno preso soltanto 12 seggi. Un seggio in meno, e soprattutto una disillusione da parte anche dell'elettorato arabo, che ha votato forse il 50%, e questo è molto grave perché hanno permesso in realtà anche un'affermazione più forte di Netanyahu e degli altri. A 48 ore dal voto, Netanyahu ha manifestato apertamente la volontà di annettere ufficialmente la Cisgiordania, dicendo che a differenza del passato questa volta avrà l'appoggio dell'amministrazione americana. Quindi è questo che ci dobbiamo attendere? Beh, in realtà lui lo ha annunciato come programma elettorale, come parte della propria campagna elettorale. Possiamo attenderci di tutto, perché in realtà se nessuno interviene, vediamo che nessuno lo sta facendo, né Putin, che in realtà per esempio ha dato una mano a Netanyahu in queste elezioni, perché attraverso la sua mediazione da parte siriana Netanyahu ha avuto restituito il corpo di un soldato israeliano morto, quindi Putin in realtà ha dato una mano a Netanyahu, e le Nazioni Unite sono un fallimento totale, l'Europa balbetta e non ferma assolutamente questa devastazione anche per Israele stesso, perché Israele sempre di più sta diventando una monarchia e sempre di più sono ristretti gli spazi di democrazia anche al suo interno, quindi non solo occupa e colonizza, ma anche al suo interno chiude molti spazi di libertà. Quindi ci dobbiamo aspettare che, come in passato, comunque l'ultradestra torni a battere cassa con Netanyahu. Beh sì, ma sai, Netanyahu è l'ultradestra in effetti, perché ha sempre sostenuto, se vi ricordate, quando assassinarono Rabin, la moglie di Rabin disse che Netanyahu era uno dei responsabili di questo assassinio. Netanyahu continua in quello che prima in una società israeliana più articolata e non così nazionalista e religiosa, non osava dire in questi anni, è diventato ed è il rappresentante proprio dei coloni, è sempre andato a trovarli in tutte le situazioni e li ha rassicurati, e ha anche fatto una politica chiara di espansione territoriale.